Secondo te come sta cambiando lo scenario della politica agricola, non solo in Italia, in generale? Io mi sento molto preoccupata, da non addetti ai lavori credo che forse stiamo un po' andando alla deriva. Ma è una preoccupazione che condivido, perché le due grandi crisi che in questo momento mettono in serie difficoltà non solo la politica ma proprio anche la società civile sono da un lato questa crisi economica molto dura e dall'altro una crisi ambientale di proporzioni veramente grandi. Queste due situazioni esigono politiche determinate che ahimè non si vedono e non ci sono. Grande assente in questo percorso è la politica, che si muove su vecchi paradigmi. È necessario costruire nuovi paradigmi che mettano al centro di tutto una, come dire, non una economia di mercato quasi che fosse il feticcio da adorare, no? Devono mettere davanti a tutto la felicità delle persone, la difesa del pianeta, l'attenzione verso le giovani generazioni e un modo diverso di ragionare che stenta ancora a svilupparsi in questo nostro mondo. Io però sono veramente rimasta stupita da un particolare mentre vedevo questo documentario. Il problema tuttavia dell'agricoltura sostenibile nasce in Europa o comunque la sensibilità soltanto qualche tempo fa. Tu invece hai cominciato a parlarne già negli anni 70. Quali furono gli elementi che ti spinsero già ad andare verso questa direzione? Sono gli elementi che oggi sono all'ordine del giorno anche qui a Bruxelles. Non concepire l'agricoltura come un settore dell'attività umana, ma bensì in una maniera olistica e quindi pensare che essendo l'agricoltura l'elemento fondamentale per garantire la nostra alimentazione, c'è qualcosa di più, non è come un manufatto quello che fanno i nostri contadini, è un rapporto con la natura, è un rapporto con gli ecosistemi e innanzitutto un rapporto con la vita. Quindi non si può concepire questo come se fosse un settore economico, questo è molto di più, è anche tradizione. Storia, memoria, capacità di interagire con l'ambiente, addirittura ci sono degli elementi sacrali nella custodire e coltivare la natura, quindi bisogna avere una visione olistica, cosa che purtroppo stenta ancora ad affermarsi, però vedo reazioni del mondo giovanile molto positive. Che cosa possiamo dire allora? Che cosa ti senti di dire qui da Bruxelles ai nostri amici all'ascolto, sia in Belgio che altrove? Ma di avere a cuore la cura dell'ambiente e in particolare sostenere attraverso azioni concrete l'agricoltura locale, la difesa della biodiversità e da questo punto di vista tutti possiamo essere tra virgolette contadini, nel senso che io non amo il termine di consumatore, il consumismo è in fondo l'effetto di questa malattia che stiamo attraversando, specialmente un consumismo passivo. Bisogna essere coproduttori, quindi sapere, conoscere, divulgare, sostenere l'agricoltura locale a difesa della sovranità alimentare, avere anche l'orgoglio dei nostri patrimoni, e questo in questa Europa è molto importante. Un'Europa che tende all'interno della quale si stanno sviluppando fenomeni preoccupanti di localismo, noi vogliamo affermare la differenza che c'è tra localismo e locale. L'orgoglio del locale è comunque una dimensione che si cimenta con il globale e che sa concepire un concetto di fraternità e di unione. Se perdiamo questo, l'Unione Europea è in seria difficoltà. Carlo, noi ti ringraziamo e continueremo ancora a seguirti nelle tue attività. Grazie a voi, grazie mille. Con il prossimo brano musicale, Daniem vi saluta e vi invita ad ascoltarci anche la vigilia di Natale, prossimo 24 dicembre, per una trasmissione di Bruxellando dedicata appunto al Natale. Buon weekend e a martedì.